Salva Danaio. È davvero un giro di boa per la sanità? Buona giornata da Irene Zerbini. Oggi noi ci chiederemo se i medici di base, reperibili 24 ore su 24, secondo la riorganizzazione del sistema, così come riorganizzato sarà il sistema di attività privata degli specialisti all'interno degli ospedali. Ecco, tutto questo di cui si discute in questi giorni, perché sono novità contenute nel decreto sanità e sviluppo, andrà in consiglio dei ministri il 31 agosto, cioè venerdì. Tutto questo porterà dei benefici all'accesso alle cure, alle terapie, alla diagnostica del cittadino? Dal punto di vista dunque dell'utente, paziente, in questo caso è un miglioramento? Voi come la pensate? Ditecelo al 349-238-6666 e mandateci anche i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, nonché le vostre esperienze. Non si piazza male a livello mondiale la sanità italiana, anzi, ma ci sono molti ambiti in cui è possibile intervenire per migliorare soprattutto l'erogazione dei servizi. Come fare? Stiamo andando nella direzione giusta? Se volete partecipare telefonicamente, invece il numero da comporre è 800 24 00 24. Sono due sostanzialmente i filoni che prenderemo in esame oggi contenuti nel decretone. Il cambio per quel che riguarda l'attività professionale dei medici di base, cioè dovranno non solo essere reperibili 24 ore su 24, ma ovviamente, essendo questo impossibile per un singolo individuo, dovranno associarsi in rete e su turni. I cittadini dovrebbero non solo avere assistenza 24 ore al giorno, ma addirittura beneficiare di quella che è chiamata medicina di iniziativa, cioè i medici di base saranno proattivi. Quando hanno a che fare con dei pazienti cronici, per esempio alcuni con scompensi cardiaci, penso ai diabetici, saranno loro a chiamare, a sollecitare i pazienti perché si sottopongano a esami o a visite di cui abbiano una forte necessità e che magari hanno dimenticato. Questo per quel che riguarda il filone medicina di base. C'è poi anche un cambio in quel che riguarda l'intramenia, che sembra una parolaccia, vuol dire i medici specialisti che esercitano la professione, cioè fanno visite specialistiche all'interno delle mura della propria struttura o del proprio ospedale. Bene, anche loro ora saranno obbligati a essere pagati con pagamenti tracciabili, così che si eluda l'evasione, e queste prestazioni che danno sul territorio dovranno rigorosamente essere effettuate dentro gli ospedali o in ambulatori organizzati dalla regione. Questi sostanzialmente i cambi. Stiamo cercando di capire in che direzione andiamo e soprattutto se questo è un bene per i cittadini. Giuseppe Scaramuzza del Tribunale del Diritto del Malato, buongiorno. Buongiorno. Che voto diamo come osservatore dal punto di vista di cittadinanza attiva dell'utente paziente a questo decreto? Voto positivo? Negativo? Dal 5 al 6? Ma, sì, appunto, l'ultima, diciamo, più o meno una sufficienza. Intanto, diciamo, abbiamo apprezzato positivamente questo tentativo di ridurre i costi del sistema ospedaliero, perché questo si tratta, obbligando praticamente a far funzionare a tempo pieno l'assistenza territoriale H24. Ecco, questo è un po' il cuore del decreto. Quindi su questo diamo un voto maggiore, sì, della, sì, sufficienza, sì, mi sembra, sì, d'aver, sì, capito. Assolutamente. Apprezzabile questo sforzo in questa direzione. Assolutamente. E poi c'è all'interno di questa cosa, ecco, che appunto chiamavate dell'obbligatorietà dell'associazione dei medici di famiglia, una prima problematica che ci siamo posti noi è questo va bene nelle aree metropolitane, va benissimo, anzi non bene, ma ci chiediamo nelle zone rurali, nelle zone montane, che sono tantissime nel nostro paese, dove esistono paesi interi con 2 medici di famiglia, massimo 3 medici di famiglia, che cosa succederà, perché nel decreto viene detto che c'è bisogno di almeno 15, dai 15 ai 25 medici di famiglia per avere 20.000 assistiti. Ecco, questo è chiaro che in certe situazioni territoriali queste cifre sono difficilmente raggiungibili. Infatti è molto facile immaginare questi poliambulatori nel cuore di Milano piuttosto che di Cosenza, Sassari, Roma o Venezia. Quando poi invece andiamo a analizzare il territorio urbano e la concentrazione demografica di certe parti d'Italia, ci si chiede come faranno ad associarsi per garantire che il poliambulatorio sia aperto 24 ore al giorno, questi medici che a volte vivono a 80 chilometri di distanza. Non ci sono dettagli su come verrà realizzato questo, naturalmente in questo caso si può anche sospendere il giudizio nell'attesa di capire come verrà attuata questa possibilità di associare in rete i medici di base. Ma soprattutto uno degli intenti di questa associazione è anche quello di sollevare i pronti soccorso da interventi, liste d'attesa, cittadini che si vedono inevitabilmente erogare dei servizi, come dire, di qualità più scarsa, proprio per il fatto che di solito stare a un pronto soccorso un po' a ogni ora del giorno e della notte, soprattutto nei grandi centri urbani, come stare in una grande piazza del mercato. Ma che voto danno invece i medici che al pronto soccorso lavorano a questo decreto? Si va nella direzione giusta? Noi per capirlo abbiamo scomodato uno di loro. Buongiorno Adolfo Pagnanelli. Buongiorno. Lei è il direttore del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione del Policlinico Casilino di Roma. Buono questo sforzo del governo? Se questo sforzo sulla parte dell'aggregazione dei medici di medicina generale, secondo me è molto buono. Farà effetto? Io credo che darà un effetto immediato, secondo lei? No. Effetto immediato no, perché si tratta di cambiare le abitudini delle persone e sappiamo tutti che quando si implementa un servizio abituare le persone a usufruirne è complicato. Allora il primo problema che vedo è che per un periodo non breve noi saremo costretti a tenere nelle attuali dimensioni i servizi di pronto soccorso e contemporaneamente ad investire su queste associazioni di medicina generale. In un momento di grave crisi economica questo sarà un problema. Però volevo dire una cosa su quello che diceva Scaramuzza, che saluto intanto. Credo che l'aspetto medicina generale nei paesi eccetera sia una criticità minore. Oggi la vera difficoltà di interpretare il ruolo della medicina generale l'avevamo proprio nelle grandi città. In qualche modo il problema delle distanze finiva per dare un ruolo anche sulle piccole urgenze al medico di medicina generale nei paesi, perché per la piccola cosa si aspetta piuttosto che fare magari gli 80 chilometri di cui parlava lei. In città invece, avendo a pochi minuti un ospedale, si saltava tranquillamente quel passaggio e si veniva in ospedale. Quindi si è tentato. Mi piace che lei parli già al passato. Sì, no, magari l'ha notato, sì, come se l'effetto di questo decreto fosse già effettivo. Comunque un segno della buona accoglienza che ha ottenuto anche presso voi medici di pronto soccorso. Vede, noi veniamo da un'esperienza molto tormentata e molto discussa, gli ambulatori di medicina generale aperti negli ospedali. Secondo noi quello che oggi ci propongono è esattamente l'opposto, cioè il messaggio che non sempre è necessario ricorrere all'ospedale, ma capisco che è un messaggio che avrà delle resistenze a passare, perché l'ospedale non è solo la struttura sempre aperta, è la struttura che garantisce tecnologia, e nella testa di molti senza tecnologia non c'è cura, e in effetti non è così, per alcune cose semplici non c'è necessità di tecnologia, però non sarà facile farlo passare nella testa delle persone. Comunque la direzione è quella giusta. E voi siete reduci da agosto, che è sempre un mese critico per i pronto soccorsi. Come è andato nella capitale quest'anno? L'anno scorso c'erano segnalazioni di emergenze terribili con pazienti che aspettavano 8, 10, 12 ore. Quest'anno com'è andata? Guardi, quest'anno è è un po' paradossale, perché abbiamo letto dappertutto che le città erano piene e sono state piene, Roma è stata piena, ma i numeri non sono cambiati molto rispetto allo scorso anno. Io credo che pian piano abbiamo fatto passare il messaggio del corretto comportamento nei periodi di calore, quindi l'anziano che sta a casa, bere molto, eccetera. Il problema non è stato tanto quello delle lunghe ore d'attesa in pronto soccorso, qualche difficoltà seria l'abbiamo avuto sulla sistemazione dei pazienti per la carenza di posto letto e la necessità in molti casi di trovare una sistemazione a pazienti che appunto hanno bisogno di ricovero o avevano problemi di altro tipo, di solitudine, eccetera, cioè magari l'anziano che a Roma gli viene meno, a Roma o nelle altre città gli viene meno la tutela costituita dalla famiglia e che costituisce sempre un... E si presenta in pronto soccorso? Questo è il problema. Qual è l'alternativa? Cioè, qual è l'altro settore, l'altro servizio sul territorio che possa... aperto 24 ore, 365 giorni all'anno? Io, guardi, faccio spesso... Il buon Scaramuzza mi avrà già sentito fare l'esempio di due anziani di 84 anni sfrattati e fatti arrivare in pronto soccorso, che dove li portavano? Con le loro malattie tipiche dell'età? Non... Vede, l'ospedale spesso è un luogo di ricovero per sani, non per malati. Sì, cioè... sì. E quindi lei sottolinea questo ruolo così, che va a colmare le lacune del sistema socioassistenziale, esatto. E sulle quali bisognerebbe intervenire pesantemente proprio per il rispetto della dignità dei cittadini anziani e no in Italia. Comincio a segnalare i vostri sms 349-238-6666. Oggi qui a Salvadanaio stiamo prendendo in esame la riforma e dei medici di base che dovranno organizzarsi in una sorta di poliambulatorio che assicuri i servizi 24 ore su 24 e della pratica medica cosiddetta intramenia. E già qualcuno commenta su quello, tra poco ci arriveremo, perché è stata voluta per passare l'elusione fiscale, ci segnala Alberto da Varese, se si voleva evitare l'evasione bastava permettere la detrazione totale della visita e non serve un professore per arrivarci. Su quello che invece comporta avere degli ambulatori sul territorio, da cittadina ci segnala Daniela e non è l'unica, do voto 10. Sentiamo le vostre opinioni anche al telefono 800 24 0024. Renata, buongiorno. Buongiorno. Pronto, Renata, dica. Io ho avuto nella mia carriera l'esperienza di medico di base e di ospedaliera. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il collega, tutto parola per parola. Quindi lei dà un voto positivo a questa riforma? Assolutamente sì, perché l'assistenza deve partire alla base, deve essere il medico di famiglia la figura che assiste quotidianamente ed è sempre presente, le associazioni al nord esistono già e funzionano. In alcune regioni sì, ci sono stati, chiaro, non sono diffuse sul territorio in maniera capillare come si dovrebbe. Quindi voto positivo per Renata, grazie, ci ha chiamato da Roma. Buongiorno, andiamo a Mantova. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno signora. Allora, io volevo chiedere una cosa. Sì. Con questa riforma il servizio di il medico che abbiamo, adesso mi sfugge il nome, la guardia medica. Esatto, la guardia medica scomparirà, sopravviverà o rimarrà? Domanda che poniamo subito a Giuseppe Scaramuzza. Ma da quello che abbiamo visto nel decreto viene, come inglobato. Dire, integrato in questa obbligatorietà di associazione dei medici. Poi bisognerà capire come, naturalmente non è il decreto che ce lo può dire, però sarà sicuramente inserita all'interno di queste associazioni. Tra l'altro una figura che, come avete sentito anche dagli ultimi articoli di giornale, è piuttosto svilita quella della Guardia Medica, assolutamente essenziale, pagata però 23 euro lordi l'ora, obbligata a turni di 12 ore, che sono delle vere e proprie tour de force per chi lo fa nelle città. Tant'è che c'è stato un caso eclatante che ha portato la figura della guardia medica sui giornali in questi giorni. A Milano, per il concorso, si sono presentati solo 99 candidati. I posti a disposizione per fare la guardia medica erano 300. Ebbene, nonostante la disoccupazione, le note problematiche che abbiano i neolaureati a trovare impiego, solo 99, tra l'altro in prevalenza stranieri, coloro che si sono detti disponibili a farlo. Anche questa figura della guardia medica dovrebbe, anche se i dettagli ovviamente non si conoscono ancora, essere inglobato in questa sorta di ambulatori sul territorio che saranno aperti per 24 ore al giorno, così da poter assicurare servizi ai cittadini. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Sì, lei è a favore o come lo vede questo cambio? No, si va nella direzione giusta? 10 lodi. Do proprio un voto 10 lode, perché era ora che si prendesse almeno nei grandi centri urbani un provvedimento, sì. Perché nei piccoli centri si conoscono tutti, si riesce a intercettare il dottore dove sta, dove non sta, ma i grandi centri urbani è un problema, perché gli ambulatori si aprono alle 9, alle 10 e mezza addirittura, dove esiste il numeretto, lo tolgono, per cui sono 2 ore. Allora uno o fa pronto soccorso di 7 ore di attesa o non si sa che cosa si deve fare. E lei sottolinea è utile, anzi indispensabile, soprattutto nelle grandi realtà, come ci diceva Pagnanelli. Ma a questo punto, Pagnanelli, al pronto soccorso chi ci andrà? Ma io credo che intanto continueranno per un po', come dicevamo prima, continueranno a venirci un po' tutti. Dopodiché probabilmente si selezionerà il tipo di utenza che dovrebbe essere quella tipica da pronto soccorso, cioè un'utenza che ha necessità di approfondimenti diagnostici e di una valutazione più attenta per decidere se ricoverare o fare o dimettere dopo però una maggior valutazione. Io credo che questo potrebbe migliorare la appropriatezza del funzionamento del pronto soccorso, tenendo conto che vede il pronto soccorso nelle grandi città in particolare ha cambiato pelle. Una volta lo faccio da tanti anni, e si andava in pronto soccorso, si veniva valutati e nel giro di minuti o qualche ora si veniva rimandati a casa o ricoverati. Questo era lo schema di funzionamento fino a 5, 6, 10 anni fa massimo. E poi cosa è successo? Poi è successo che il pronto soccorso ha cambiato la propria natura, cioè non è più un luogo di rapida valutazione e destinazione, ma è un luogo spesso di cura. Vede, a Roma ci sono pronto soccorso in cui si rimane anche 3-4 giorni prima di trovare un posto letto. Vede, c'è un dato che secondo me è il più chiaro. Quale? Quello dei pasti serviti al pronto soccorso. Pasti. Nel senso che nel mio pronto soccorso 30-35 persone al giorno ci mangiano. Quando mai uno andava in pronto soccorso e ci pranzava o ci cenava? Questo è diventato quindi il pronto soccorso un luogo di ricovero e non più un luogo di valutazione, visita e destinazione. Questo è quello che è cambiato e purtroppo... Ha snaturato, lei dice, la missione originaria che tale deve tornare... E le strutture non sono andate appresso a questa esigenza di cambiamento di funzione, ha capito? È stato chiarissimo. Poi questa fotografia che ci ha proposto dei pasti serviti in pronto soccorso la dice più lunga di tanti numeri, di tante statistiche che spesso si snocciolano. Giulio, buongiorno. Sono il professor Giulio Cesare Papandrea. Buongiorno, allora, professore. Dove chiama? Io chiamo da Padova. Sì. Allora, l'errore della riforma sanitaria, prima ospedaliera e poi riforma sanitaria, è rappresentato dal fatto che purtroppo non è stata organizzata in maniera corretta la medicina generale. Mi spiego meglio. Sì. In Inghilterra il medico di medicina generale risolve il 78% dei bisogni di salute della popolazione. In Italia soltanto il 41%. Quindi vedi questo divario enorme. Quando lei dice risolve i problemi di salute della popolazione, cosa intende? Risponde a tutte le esigenze di cui la popolazione ha bisogno, tranne quelli per i quali il medico di medicina generale manda il malato in ospedale. Se lei va in un pronto soccorso di un ospedale di Londra, per dire la città più grande che c'è in Inghilterra, lei non trova la gente che arriva spontaneamente al pronto soccorso, tranne gli incidenti stradali e cose di questo genere. quasi tutti ci arrivano perché ce li manda il medico generico, il quale ha ritenuto che per quelle esigenze di cui il paziente ha in quel momento bisogno, lui non ha potuto risolvere il problema a livello territoriale. Benissimo, è sottolineata questa differenza, professore, quindi qual è l'intervento sulla medicina generale che secondo lei dovrebbe essere prioritario in Italia? Da un voto positivo a questo contenuto nel decreto sanità e sviluppo per cui i medici di base saranno reperibili 24 ore su 24 o lei avrebbe adottato soluzioni diverse? No, mi pare che questa sia una cosa possibile, una cosa sicuramente interessante. Bisogna vedere se è applicata alla maniera inglese o alla maniera italiana. Eh beh, qui c'è anche un problema di mentalità, naturalmente, segnalato anche dai suoi colleghi, per cui non è che gli italiani diventano anglosassoni nel corso di una notte, ma abbiamo dimostrato di saper così intraprendere delle vie virtuose quando stimolati. Vorrei anche segnalare, a proposito di confronti con la sanità estera, che in materia di sanità l'Italia rimane comunque al top del mondo, non solo in termini di spesa, perché andando a guardare quanto del PIL viene speso in sanità, primo in classifica sono gli Stati Uniti, che non credo costituiscano certo un esempio, poi alla fine per l'utente finale. Il settore pubblico è la principale fonte di finanziamento della sanità in tutti i paesi dell'OCSE, a eccezione appunto degli Stati Uniti, del Messico e del Cile. E in Italia il 78% della spesa sanitaria è stata finanziata da fonti pubbliche, un tasso superiore alla media OCSE. Ma andando a guardare anche la qualità dei servizi, il tasso di mortalità a seguito di un attacco cardiaco o di un ictus è inferiore in Italia alla media OCSE. Il tasso di natalità e il tasso di mortalità alla nascita a sua volta è inferiore. Insomma, ci sono tutta una serie di dati positivi che fanno spezzare una lancia a favore del sistema in sé. Poi, naturalmente, da italiani, da utenti e da pazienti bisogna segnalare criticità e vedere di migliorarlo. E tra poco apriremo anche il capitolo dell'intramenia, cioè evitare che ci sia evasione da parte dei medici specialisti degli ospedali che poi assicurano anche dei servizi, delle visite diagnostiche ai loro pazienti. Si va in una certa direzione, è positivo, è negativo, è qualcosa che funziona, si sarebbe potuto fare di più. Sono tutte tematiche naturalmente molto vicine alla salute, quindi alle esigenze di tutti noi che viviamo in Italia, ma ci sono indicazioni precise che ci fanno pensare che forse il problema della lista d'attesa e degli esami impossibili non è stato affrontato in maniera abbastanza aggressiva. Cioè, pensate che a Milano in certi ospedali per ottenere una visita oculistica bisogna aspettare 90 giorni, 108 a Roma, 122 a Torino. Per una visita ortopedica si arriva a 202 giorni. Stiamo parlando naturalmente di visite in servizio sanitario nazionale. Se si paga, se si mette mano al portafoglio, miracolosamente la disponibilità dei professionisti arriva nel giro di 3-4 giorni. Ora meteo e torneremo a parlarne tra pochissimo. Salva Danaio. Parliamo allora di medicina. Finalmente qualcosa si muove, ci segnala un ascoltatore. Molti vedono di buon occhio questa possibilità di avere i medici di base reperibili 24 ore su 24. E, visto dalla maggioranza dei nostri ascoltatori come importanti, ma non da tutti visto in maniera positiva, perché c'è chi ci segnala il timore che in realtà rimanga una promessa sulla carta e quindi ci scrive: bisogna smettere di fare questi annunci a dir poco utopistici quando in realtà bisogna intervenire sulla realtà e fare i conti con i soldi a disposizione. Il capitolo salute, lo ricordo, pesa per 130 miliardi sulle casse dello Stato. Nella spending review si legge di questi risparmi per 6 miliardi fino al 2015. Una strada percorribile, porterà a disagio alla popolazione. Ettore, buongiorno. Pronto, Ettore? Sì, pronto. Sì, lei è favorevole o contrario? No, sono contrario per delle ragioni, credo anche importanti. Non so, ad esempio, nessuno ha parlato dell'importanza della segretezza della cosiddetta cartella clinica. Questa cartella dovrà essere disponibile in rete per tutti i punti dei medici. Eh beh, chiaro, perché uno possa sostituire il collega e intervenire su un paziente che non conosce, deve avere accesso a dei dati. Tanti che non a tutti piace che siano in linea, questa è una. Il cosiddetto rapporto fiduciario con il medico di base dove ci va a finire? In realtà il medico di base non esiste più. Io credo, grazie Ettore per questa segnalazione senza dubbio importante, che chi si trovi in questa situazione, cioè di dover far prevalere la privacy su interventi urgenti, non andrà dal medico di notte, oppure segnalerà che preferisce essere visto semplicemente dal suo specialista e ci andrà negli orari normali, chiamiamoli così tra virgolette giornalieri, in cui lo specialista è a disposizione. Voi del Tribunale del Diritto del Malato avete preso in esame queste questioni, Giuseppe Scaramuzza? Sì. Diciamo, questo riguarda un po' la personalizzazione delle cure, giusto quello che lei diceva prima, si può programmare, come oggi si programma, ecco, di andare dal proprio medico di famiglia la mattina, a seconda di quando è di turno, lo si potrà fare tranquillamente, ecco. Però è importante avere un presidio territoriale vicino casa, quindi non in un ospedale, attivo 24 ore su 24 e soprattutto nel fine settimana, cosa che oggi in questo momento non è possibile avere, e questo secondo noi è molto importante. C'è qualcuno che ci segnala anche che a Busseto esiste da alcuni anni un poliambulatorio con 5 medici che si sono già associati, sono disponibili dalle 8 alle 20 anche per le piccole emergenze, e sembra che sia positivo il bilancio di questo aspetto. Poi, chiaro, rimangono interrogativi che ci segnalate anche voi su come verrà realizzato. 800 24 00 24 il telefono, 349 238 6666 per le vostre osservazioni via SMS. Ora apriamo un capitolo che sembra toccare i camici bianchi più da vicino, ma in realtà ha degli effetti spesso deleteri anche sulle prestazioni che noi cittadini riceviamo. Ed è il capitolo delle prestazioni intramenia, visto che ci sono novità introdotte da questa riforma che riguardano questo aspetto. Innanzitutto dobbiamo sciogliere il campo da alcuni equivoci e spiegare qual è la situazione attualmente e dove si andrebbe con questo decretone. Per farlo abbiamo disturbato Costantino Troise. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Costantino Troise è il segretario nazionale dell'ANAAO Assomed, e quindi sono delle sigle che stanno per Associazione dei Medici Dirigenti, insomma rappresenta i medici che lavorano negli ospedali pubblici. Questo decreto parte da una situazione che già esiste, che regola l'intramenia dei vostri specialisti. Cos'è l'intramenia? Spieghiamolo a chi non ha dimestichezza con questi. L'intramenia è l'attività professionale che la legge consente di svolgere al di fuori dell'orario di lavoro, e sottolineo al di fuori dell'orario di lavoro, a medici dipendenti degli ospedali che hanno scelto un rapporto di lavoro di tipo esclusivo, insomma. Il termine intramenia fa riferimento a spazi che devono collocarsi dentro il perimetro dell'azienda territoriale, ospedale. Dottore, la interrompo subito. Voi quanti medici rappresentate? Quanti associati avete? Circa il 20% dei medici dipendenti. Quindi in totale? 20.000 medici ospedalieri. Da quando c'è questa possibilità di scegliere di lavorare intramenia o praticamente di accettare di lavorare esclusivamente per l'ospedale? Quanti hanno sottoscritto questo contratto, che a fronte di un'indennità, immagino? Certo, dal 2000 ad oggi si calcola che circa una media nazionale dell'85% ha scelto questo tipo di rapporto. Cioè, scegliendo questa strada non si può più visitare il proprio paziente a casa propria o in uno studio esterno? Scegliendo questa strada si svolge attività professionale in nome e per conto dell'azienda, cioè su orari concordati con l'azienda, su luoghi concordati con l'azienda, su volumi di attività concordati con l'azienda, su tariffe concordate con l'azienda, sulle quali l'azienda percepisce una parte, insomma, a copertura delle spese che sostiene per l'effettuazione di questa attività. Ora, dottore, mi perdoni, sarò eccessivamente didascalica, ma facciamo un esempio pratico. Io sono un cardiologo dell'ospedale X di Roma o di Bologna. Per 38 ore alla settimana lavoro per l'ospedale all'interno delle corsie. L'organizzazione del lavoro precostituita, diciamo. Sì. Poi, avendo io sottoscritto questa esclusività, è vero o no che coloro che hanno un contratto successivo al 1998 non hanno nemmeno la possibilità di scelta, sono obbligati? No, ma questo non è vero. Sì, beh, i nuovi, certo, la legge del 2000, la legge del 99, la 229, prevede che i nuovi entranti hanno direttamente il rapporto esclusivo, però si può esercitare l'opzione per il regime non esclusivo entro il 30 novembre di ogni anno, insomma. Diciamo che il 2 gennaio si entra in esclusivo, ma il 30 novembre si può scegliere di uscire dal regime esclusivo. E lei ci ha detto che il 90% dei camici bianchi lavora in questo regime. Quindi io, cardiologo, che sono disponibile in corsia per i ricoverati, sono anche a disposizione per delle visite, per dei pazienti che lo richiedano, che vogliano me, eccetera, a pagamento, però all'interno delle menia, cioè delle mura dell'ospedale. Sì, dello spazio che l'azienda mette a disposizione. Benissimo, e sono chiarimenti indispensabili per continuare la discussione. Cosa cambia ora con questo decreto che andrà in Consiglio dei Ministri il 31? Guardi, dal 2001 si è constatato che molte aziende non avevano spazi da mettere a disposizione del numero dei medici, per cui erano costrette a convenzionarsi con strutture private non accreditate o addirittura con i singoli studi dei professionisti, insomma. Questa cosiddetta attività intermedia allargata ha vissuto di proroga per 12 anni, insomma. Oggi il provvedimento ha l'ambizione di mettere fine al regime delle proroghe per costruire un sistema strutturato, organizzato, in cui in certe condizioni è possibile, in mancanza di spazi di proprietà dell'azienda, dentro l'azienda, utilizzare spazi esterni anche del singolo professionista, a condizione però che si rispetti l'organizzazione, che deve essere comune, voglio dire, prenotazione centralizzata fatta dall'azienda, cioè tracciabilità dei pagamenti. Praticamente io, cardiologo, torniamo sempre all'esempio prima, sì, non posso dire a Giuseppe Bianchi, mio paziente, sì, ci vediamo oggi alle 5 in tale tale spazio, ti faccio la visita, incasso magari in contanti. Quello che cambia è che il Giuseppe Bianchi, per quanto seguito da me, deve prenotarmi attraverso un sistema centralizzato. Certo. Sto proprio semplificando, sì, perché è così. Deve pagare la struttura, cioè l'ospedale, con metodi tracciabili, cioè non va più bene la banconota, ma deve essere una carta. Il bancomat, il 5% dei compensi così recepiti dai medici, lo voglio ricordare, andrà accorciare, questa è la destinazione, le liste d'attesa. Ma noi, dottor Costantino Troise, siamo sicuri che con questo metodo si abbassano le liste d'attesa, cioè si accorciano? Assolutamente no, per due motivi, insomma. Innanzitutto, questo famoso 5% si va ad aggiungere ad altri oneri che molte regioni hanno già posto a carico di professione, il Lazio il 10%, insomma. Ma soprattutto questo 5% è una tassa mascherata, perché andrà ad aumentare le tariffe e in qualche modo sarà riversato sui cittadini. Cioè, guardi, il limite del provvedimento di Balduzzi è quello di aver costruito un sistema però oberato di oneri amministrativi ed economici, che parte saranno caricati sui cittadini, vere e proprie tasse mascherate, parte saranno, come dire, un elemento di disincentivazione. Di disincentivazione? Scusi, non ho capito. Un elemento di disincentivazione di che cosa? Un elemento pesante da un punto di vista amministrativo e meno gratificante da un punto di vista economico, perché aumentare le tariffe significa avere meno volume di attività. Vuol dire, il vantaggio dell'intramenia, funzionare da calmiere anche per quanto riguarda le tariffe nei confronti del privato puro. Allora, quando queste tariffe sono costrette a crescere a un livello molto vicino a quello del privato puro, è chiaro che diventa meno attrattivo sia per i professionisti che per i pazienti. Che per i pazienti, perché per pagare 250 euro intramenia per una visita specialistica, allora ci si rivolge allo specialista che non fa intramenia, perché ricordiamolo, quali sono i vantaggi dei colleghi che non fanno intramenia, che sono in regime di privato puro? Il collega che non fa intramenia può scegliere il luogo o i luoghi dove si c'è l'attività professionale. Può venire a casa mia, può venire alle 9 di sera. Ma può girare per la regione, anche fuori regione. non è costretto a concordare con l'azienda la tariffa, quindi in buona la tariffa che vuole, non è costretto a utilizzare orari concordati con l'azienda, insomma, non deve dirgli io lo faccio dalle 5 alle 8, ma può farlo quando vuole, e non è obbligato a rispettare un certo volume di attività, insomma, può lavorare chiaro. Fin dove vuole, fin dove vuole, insomma. Quindi lei ha messo in luce alcune contraddizioni di un sistema che fa sì che i medici e le loro specialità, i loro servizi, siano una sorta di bancomat a cui attingere per finanziare il pacchetto sanità, con degli effetti deleteri che abbiamo segnalato finora: liste d'attesa che si allungano, perché naturalmente un medico che già lavora per 38 ore alla settimana in un ospedale poi avrà a disposizione un residuo di tempo libero che utilizzerà per questa attività di intramenia e che andrà a danno, in qualche modo a danneggiare quelle altre prestazioni fatte per il Servizio Sanitario Nazionale. Basta fare una semplice prova: chiamate un centro di prenotazione della vostra regione, chiedete una TAC, per esempio, dicendo che avete una ricetta, una prescrizione del vostro medico di famiglia per questa TAC, e chiedete prima dopo quanti giorni potrete avere questa TAC all'addome, per esempio. Se non pagate, cioè se andate in regime convenzionato, e vi verrà proposto un tempo che oscilla naturalmente da regione a regione, ma che va sul mese più o meno. Dite poi di essere disposti a pagare, vedrete come miracolosamente questa TAC si renderà disponibile in un tempo decisamente inferiore. Ora, per servizi diagnostici urgenti questa differenza è molto grave. Alberto, buongiorno. Buongiorno, sono Alberto da Varese, volevo intervenire proprio per questa norma qua, secondo me non è molto efficace. In genere vado dal medico, pago privatamente, pago cash, per due motivi. Vabbè, prima faccio prima, come stava dicendo lei, e poi c'è sempre uno sconto importante, magari del 30% rispetto al fatturato. Io mi chiedo, ma per evitare questa evasione fiscale, perché comunque è anche quello lì il nostro scopo, non è più facile dire facciamole detrarre queste visite al 100%, di modo che, cioè, lei sta facendo, sta ammettendo qui pubblicamente, e la stimo per la sua franchezza, non credo sia l'unico, non temo proprio di no, anche perché in questo caso a vergognarsi dovrebbe essere più il medico. Sta ammettendo di scegliere appunto una via, come dire, privata, che permette al medico di non emettere fattura, a lei di risparmiare qualcosa. Per evitare questo, ci stava dicendo, la soluzione non è l'intramenia così come è indicato, ma invece che cosa allora, Alberto? La possibilità di detrarre le spese mediche, che non sono le spese voluttuari. Cioè, se lei fa caso, adesso vabbè, io lavoro nel termico, qualche anno fa hanno buttato il 55% sui pannelli solari di detrazione, sì, e tutti a far pagare tasse agli idraulici e agli elettricisti, perché per l'amor di Dio, io come privato voglio il tetto fotovoltaico, ma fammi tutto fatturato. Certo, allora, lo scarico. Ma la spesa medica non è più importante di una caldaia? Anche della caldaia, quindi perché anche non, della caldaia o del, perché non renderla detraibile del tutto, almeno? Probabilmente chi fa queste norme, secondo me, e la penso male, è la lobby dei medici, perché io mi vedo una vecchietta di 83 anni, tipo mia madre, deve andare dall'ortopedico adesso, ma Guda fa la segna, ma devo fare qui, devo fare là. Gli dà i soldi così e fa prima a un certo punto, cioè non è che ci, quindi scoraggiare questi interessi, creare un conflitto di interessi tale che faccia sì che il paziente chieda sempre la fattura e per la totalità dell'importo, e a sua volta il medico sia costretto a emetterlo. Grazie per questa segnalazione ad Alberto. Tra pochissimo anche le vostre all'800 24 00 24. Viabilità. Salva Danaio. Prima di tornare a parlare di sanità, visto che il signor Alberto ci ha parlato della madre 83enne, un tema molto importante per ogni paese civile: la previdenza, la pensione. Domani, ve lo ricordo, è in edicola con Il Sole 24 Ore a 50 centesimi la pensione. Questo è il nono titolo di quella serie di volumi che ogni martedì si occupa di temi concreti, e per questo siamo molto grati all'iniziativa. Si intitola La tua economia, questa collana, e domani si occupa di previdenza, le ricadute quotidiane della crisi, quando si potrà andare in pensione, come sarà calcolato ogni assegno, insomma tutte le novità introdotte dalla riforma vengono analizzate in questo volume, e si risponde ai quesiti che gli italiani spesso si pongono. Oggi, scusate, parlavo di domani perché ero convinta fosse lunedì. Oggi al microfono Irene Zerbini, oggi Parliamo di sanità. Mi stanno tirando le orecchie dalla regia. Ringrazio per questa prontezza naturalmente Matteo Comes e Barbara Bianchi, che fanno sì che io non vada così troppo fuori tracciato quando mi lascio prendere. Ora noi stiamo parlando dell'abbassare i costi della sanità in Italia, mantenendo e possibilmente migliorando il servizio già a disposizione. Nel decreto sanità e sviluppo, per chi avesse acceso da poco, andrà in Consiglio dei Ministri il 31 agosto, sono contenute alcune norme, abbiamo visto con grande favore da parte dei cittadini, utenti, pazienti, voi che avete chiamato, quelle relative ai medici di base che d'ora in poi si devono associare in rete e quindi assicurare una disponibilità 24 ore su 24 su tutto il territorio, un po' più critici per quel che riguarda la regolamentazione dell'attività dei medici all'interno degli ospedali, la famosa attività intramenia. Per abbattere queste liste d'attesa terribili che purtroppo caratterizzano l'erogazione di tanti servizi in Italia, cosa bisognerebbe fare, Giuseppe Scaramuzza? Ma io credo che le liste d'attesa non solo io, ma sono un fenomeno un po' dei paesi occidentali, e quindi più che abbatterle bisognerebbe lavorare per governarle, ecco, per governare queste liste d'attesa affinché tutta una serie di prestazioni vengano erogate in una certa maniera e alcuni, soprattutto per esempio per i malati cronici, vengano previsti dei percorsi personalizzati e non che magari un cardiopatico piuttosto che un asmatico debba purtroppo, come spesso accade, prenotare nei, diciamo, delle prestazioni come lo fa ognuno di noi nel prenotare un attacco, un'ecografia, come veniva fatto l'esempio prima, ecco, no? Su questo, ma si ricorda Ferruccio Fazio, era ministro alla salute, sì. Lui aveva detto che le liste d'attesa dovevano prevedere al massimo 30 giorni per quel che riguarda la diagnostica, diciamo così, e non oltre i 60 per quel che riguarda alcuni esami specialistici. Ora, ma è utopia quello che chiedeva? Perché è così impossibile cogliere questi obiettivi? Ma in alcune zone del paese no, non è utopia, perché questo in alcune zone del paese avviene. Ci sono altre zone dove addirittura alcune regioni, nella stessa legge che le citava prima del ministro Fazio, veniva imposto alle regioni di elaborare dei piani di contenimento sulle liste d'attesa. Bene, ci sono alcune regioni che non hanno proprio fatto questi piani. La gran parte delle regioni lo ha elaborato, lo ha mandato al ministero, altri non l'hanno neanche predisposto. Questo è molto grave, noi l'abbiamo denunciato varie volte. Poi ci sono tutti i problemi che riguardano un po' i centri di prenotazione. Ci sono centri, cioè? Di prenotazione, i cosiddetti CUP centralizzati. No, ho capito cosa sono i centri di prenotazione, sì. Quali sono i problemi legati a questi CUP? I problemi sono che alcune aziende in quei centri di prenotazione addirittura regionalizzati o centralizzati, sì, non danno una quantità di agende prenotabili sufficiente per effettuare le prestazioni. Poi c'è tutto il tema, per esempio, sul privato accreditato, cosiddetto classificato. Faccio un esempio: Gemelli a Roma, Fate Bene Fratelli a Roma, sì, sono aziende a sé che, se uno chiama il numero verde regionale di tutto il Lazio, non può mai prenotare una prestazione al Gemelli o a Fate Bene Fratelli, ecco, dovrà andare di persona oppure chiamare a un numero loro direttamente. Però a parte questo caso specifico, ci segnalano gli ascoltatori, Roberto da Belluno, diamo anche gli esempi positivi, dice: lavoro in un ospedale dove le richieste di visita con carattere d'urgenza vengono evase in tempo reale. Questa è una situazione, dobbiamo dire, abbastanza comune in Italia. Il famoso bollino verde, almeno in Lombardia così viene contrassegnato, quello con carattere d'urgenza viene evaso immediatamente. E invece ci segnalano la percezione molto negativa e dettata da esperienza, del centro di prenotazione che fissa una certa prestazione diagnostica entro il mese o anche più e invece sottolinea già al telefono al paziente che se vuol pagare in 3-4 giorni avrà quella prestazione. Beh, questo è molto non solo fastidioso, ma è decisamente negativo per i cittadini. Come si combatte questo tipo di doppia corsia? Appunto distorta dell'intramenia, appunto che l'intramenia viene vista come una vera e propria truffa, ecco, diciamo, no? Cioè appunto che tu mi proponi immediatamente questa è veramente fuori legge, ecco, non dovrebbe essere assolutamente proposta. Io volevo ritornare brevissimamente, ma anche se non viene proposta è la realtà, la interrompo un attimo, sì, Scaramuzza, perché vorrei chiamare in causa su questo anche il segretario nazionale dell'Associazione dei Medici Ospedalieri, Costantino Troise. Come si può mettere fine a questa corsia doppia per cui il cittadino di serie A che può pagare anche all'interno di un ospedale verrà visitato entro 3 giorni e per la stessa problematica con la stessa diagnosi quello che non può pagare deve aspettare più di 40, per esempio? Allora, premettendo, è forse il caso di non dimenticarlo mai, che le urgenze vengono fatte in tempo reale, sì, dappertutto, voglio dire, insomma. Io credo che l'unico modo per ridurre questo divario è quello di investire in risorse professionali e in risorse tecnologiche. Voglio dire, io occorre mai dimenticare che in questo paese c'è un blocco del turnover, cioè i medici non vengono assunti da diversi anni. Se i suoi cardiologi, mettiamo 10 cardiologi, mantengono la lista d'attesa entro 30 giorni per la visita, ma dopo un po' 2 vanno in pensione e non vengono sostituiti, uno si ammala e non viene sostituito. Una dottoressa ha la cattiva idea di fare un figlio e non viene sostituita. Beh, non dica la cattiva idea di fare un figlio, scusi, una battuta non fa ridere in questo paese, perché sapesse quante subiscono mobbing proprio per questa cattiva idea, scusi. Era solo una battuta, sì, non gradita. Insomma, va bene. Senza poterla sostituire. Allora, i 6 medici che rimangono potranno mantenere l'attesa a 30 giorni? Io credo di no, voglio dire, insomma. E se non si assumono più medici, quindi abbiamo meno professionalità a disposizione, la lista d'attesa è destinata a crescere inevitabilmente. Ed è proprio un problema di numeri, lei dice, di voi camici bianchi. Allora, è un problema di organizzazione anche, voglio dire. Insomma. Quanti medici mancano negli ospedali italiani? Da qua al 2020 andranno, sì, via 60.000 medici. Insomma. 60.000 medici secondo i calcoli del sindacato. Tra dipendenti, ospedalieri e universitari. Insomma. La interrompo un attimo per dare la parola agli ultimi 2 ascoltatori che attendono da molto tempo. Andrea, buongiorno, la invito a essere sintetico perché purtroppo, sì, abbiamo poco tempo. Sì, pronto, buongiorno, sì, io sono Andrea, sì, sono da Roma, sono un infermiere, non sono un medico. Sì. Vorrei sapere se con la legge che c'è in atto noi dobbiamo stare aperti 24 ore su 24 lavorando comunque con i medici di base. Cioè anche voi infermieri. Aurora, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che sono d'accordo per questi voli ambulatori, però mi preoccupa sia il fatto del turno lungo, oppure come diceva, non so se era un medico, prima che la gente venga educata a queste cose, ma credo che con una buona pubblicizzazione ci si abituerà, la gente si attrezza. Grazie, Aurora. Servono delle strumentazioni che sono coperte dalla polvere e nessuno le sa usare. Allora medici e infermieri fare un po' di ambulatorio diagnostico e utilizzare questi strumenti indispensabili. Grazie ad Aurora. Qualcuno può rispondere anche all'infermiere Troise, ci saranno gli infermieri in questi laboratori 24 ore al giorno? Io credo di sì, in una squadra che eroga prestazioni sanitarie è indispensabile, è inevitabile, anzi, e dobbiamo interromperci, anzi, purtroppo.